medio orientale e fermando la proliferazione delle armi del mito sotto lo sguardo attento del presidente. Ora 19:38, un altro ritorno in questa serata livida sulla pontina a combattere con le intemperie, un cielo veramente plumbeo. E devo dire anche a combattere con l'incredulità, si ascoltano alla radio queste cronache sul crack Parmalat ed è veramente incredibile come, adesso al di là dei deliri di onnipotenza che sono la mia unica spiegazione, che permettono a un uomo come Tanzi di rendersi protagonista di una vicenda di questo tipo, perché cioè io credo che questa gente perda proprio il senso della realtà, altrimenti non si spiega. Ma al di là di questo, la cosa che forse mi colpisce di più è la connivenza di queste società che dovrebbero occuparsi di revisione di conti e dovrebbero vendere anche la loro, ovviamente la loro competenza, ma anche la loro onestà, la loro reputazione di affidabilità, e invece in realtà il ruolo di questa società è proprio quello di essere una sorta di foglia di fico, e tutto sommato quello che sta accadendo con Parmalat è ancora più clamoroso rispetto a quello accaduto per esempio con Andersen Consulting nei confronti di Enron, perché il presunto, diciamo così, ripulitore della società, questo Bondi, questo personaggio che non mi sembra che possa essere considerato della stessa statura morale di un Ambrosoli, comunque questo Bondi che cosa fa per scoprire il vero bilancio della Parmalat? Come se il re non fosse nudo, convoca un'altra società di revisione di conti, la PricewaterhouseCoopers, che in tutta franchezza, se io fossi un risparmiatore, francamente per me un nome varrebbe l'altro. Cioè, se una società fino a poco tempo fa era in concorrenza con Ernst & Young, con Andersen Consulting e compagnia, io francamente non vedo come si possa avere fiducia in PricewaterhouseCoopers. Non so voi come la pensiate. La posizione di Tesla, detto quasi sempre, al senatore dello Stato, accanto John Kerry, Massachusetts, rivela